24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. La Commissione europea ha cancellato l'incontro di venerdì 2 marzo nel quale si sarebbe dovuto discutere del rafforzamento dei fondi di salvataggio europei. La decisione, riferisce una fonte, sarebbe dovuta all'incertezza sulla capacità della Germania di aumentare il suo contributo per il fondo salva stati. Intanto il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, lancia un appello per mettere in pratica le misure sulla crescita. È il momento di agire, ecco l'appello, l'ennesimo appello del Presidente della Commissione José Barroso in una lettera ai leader europei. Parole non nuove, ma siamo ancora ai toni da ultima spiaggia. Giovedì si riuniscono i ministri finanziari dell'Eurozona, sempre il caso Grecia sul tavolo. Dovranno verificare che Atene ha approvato le ultime misure di bilancio e così dare via libera alla tranche del prestito. Poi sempre giovedì e venerdì, sempre a Bruxelles, tocca ai capi di Stato e di Governo, sempre caso Grecia, strategie per occupazione e crescita. L'Eurozona in recessione, la seconda in 3 anni. Purtroppo non saranno prese decisioni sul rafforzamento del fondo salva stati, c'è il veto tedesco, sempre la Germania di mezzo, con la cancelliera Angela Merkel che ha perso la sua maggioranza proprio sul via libera al secondo prestito alla Grecia. Il fondo salva stati dovrà essere comunque rafforzato, ma se ne parlerà nelle prossime settimane. Intanto cresce la preoccupazione per le reazioni delle opinioni pubbliche e dei cittadini. Con il solo rigore di bilancio, l'accettabilità sociale dell'austerità non è garantita. Antonio Poglio Salimbeni per Radio 24, Il Sole 24 Ore, Radio Core Bruxelles. Il capo del governo dell'Irlanda, Enda Kenny, ha confermato che il paese intende sottoporre a referendum popolare l'accordo sul rafforzamento della governance economica, battezzato Fiscal Compact, stretto con gli altri partner dell'Unione Europea il mese scorso, con l'eccezione di Gran Bretagna e Repubblica Ceca. L'annuncio dopo che diversi partiti dell'opposizione irlandese avevano avvertito che avrebbero fatto ricorso alla giustizia del paese in assenza di un referendum confermativo sul Fiscal Compact. Alla vigilia della maxi asta BCE, chiusura positiva per i listini europei, dopo aver perso terreno sulla scia dei brutti dati tedeschi sull'inflazione, le borse del vecchio continente hanno ripreso quota grazie al buon dato sulla fiducia dei consumatori americani. Francoforte ha guadagnato lo 0,56%, Parigi lo 0,36%, Londra è cresciuta dello 0,21%. Le borse europee hanno chiuso sopra la parità una giornata volatile vissuta in balia di dati americani contrastanti. I mercati, dopo il taglio del giudizio sulla Grecia da parte di Standard & Poor's, sono in attesa della seconda maxi asta della Banca Centrale Europea ad ammontare illimitato, tasso all'1% e durata di 3 anni. Milano ha chiuso in rialzo dello 0,37%, trainata da ST, che ha guadagnato quasi 7% grazie al contratto con Samsung siglato dalla joint venture ST Ericsson. Ma le Mediaset meno 2% circa, Finmeccanica meno 1%, entrambe in attesa dei conti rispettivamente il 14 e il 20 marzo. Gli operatori hanno iniziato a ragionare per il gruppo media su un possibile taglio del dividendo e sull'andamento della raccolta pubblicitaria, mentre per quanto riguarda Finmeccanica il Sole 24 Ore si aspetta una perdita record di 2 miliardi di euro a causa di pesanti svalutazioni. Nel resto del listino prema fin dalla Galassia Rigresti, ha perso oltre il 12% sulle scommesse che la famiglia rifiuterà l'offerta di Palladio e Sator per andare avanti con il piano di integrazione con Unipol. Livia Zancaner da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Fiat è disposta a mantenere gli impegni di produzione in Italia, ma le condizioni devono essere estremamente chiare. Lo ha detto a Bruxelles l'AD di Fiat Sergio Marchionne, dove ha parlato in qualità di presidente della CEA, l'Associazione Europea dei Costruttori d'Auto. Da Bruxelles Andrea Malan. Marchionne ha ribadito le affermazioni già fatte più volte in passato per quanto riguarda le condizioni, dove intende per condizioni sia quelle sindacali sia i vari prodotti che dovranno essere lanciati, che dovrebbero permettere nelle sue intenzioni al nostro paese di esportare anche vetture all'estero in quantità maggiori che in passato. Purtroppo il 2012 resterà un anno molto difficile, lo ha ribadito oggi, e in queste condizioni si impongono tagli ai costi che rende difficile mantenere i tempi di lancio dei nuovi prodotti. Quindi è una situazione molto complicata. Per risolverla ci sono due strade: uno è proseguire sulla via delle intese all'estero, e proprio oggi potrebbe forse arrivare già in giornata e comunque nei prossimi giorni l'annuncio di un'intesa in Russia con la banca Sberbank per un nuovo stabilimento a San Pietroburgo per produrre delle Jeep in Russia, e dall'altra parte, sempre per tagliare i costi, c'è la ricerca di un partner in Europa occidentale. Sappiamo che in questi giorni GM e Peugeot stanno trattando per un'intesa a tutto campo industriale, questi sono i due partner di cui si era parlato come possibili soci di Fiat, se la loro intesa andrà in porto a Fiat non rimarranno molti partner possibili in Europa, questo lo ha ammesso anche Marchionne. Uno di questi potrebbe essere la giapponese Suzuki, che ha una notevole somiglianza, potrebbe lavorare bene con Torino nelle piccole auto e che ha un'intesa con Volkswagen con la quale però sta da tempo litigando. Vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi, sicuramente la crisi di quest'anno in Europa accelererà questo processo. Dopo la Croazia, ora è la Serbia a dover affrontare la trattativa per l'adesione all'Unione Europea. La minaccia di veto arriva da Romania e Lituania, per questo quello che già sembrava certo viene rimesso in discussione. I 27 ministri degli esteri UE dunque sono al lavoro nuovamente per conferire o meno alla Serbia lo status ufficiale di paese candidato all'adesione UE. Decisione che Belgrado sentiva già in tasca prima che la Romania pretendesse misure specifiche per le minoranze rumene in Serbia e che la Lituania sollevasse una questione più generale, vedendo nella Serbia una vera e propria avanguardia di Mosca all'interno dell'Unione Europea. Speranza in una luce verde è stata espressa dall'alto rappresentante dell'UE, Catherine Ashton, al fianco del presidente serbo Boris Tadic, volato nella capitale belga ad attendere il cruciale verdetto. Comunque vada la trattativa di queste ore, la decisione definitiva dovrà essere poi formalizzata ufficialmente dai 27 capi di Stato e di Governo riuniti nel Consiglio europeo dell'1 e del 2 di marzo. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Il Consiglio Costituzionale francese ha censurato la legge che punisce il negazionismo del genocidio armeno, ritenendola contraria alla libertà di espressione, reprimendo la contestazione dell'esistenza e della qualificazione giuridica di crimini che esso stesso ha riconosciuto e giudicato come tali, ha spiegato il Consiglio in una nota, il legislatore ha portato una minaccia incostituzionale all'esercizio della libertà di espressione e di comunicazione. Circa 2,5 milioni di persone in tutto il mondo hanno firmato una petizione per dire no al Trattato ACTA, l'accordo internazionale anticontraffazione. La petizione è stata consegnata al Parlamento europeo. Secondo molti internauti, il trattato minaccia la libertà di espressione sul web. Contro questo accordo internazionale, siglato a fine gennaio, sono scesi in piazza migliaia di cittadini in tutta Europa. La settimana scorsa la Commissione europea si è rivolta alla Corte di giustizia europea per vedere se il trattato sia compatibile con i diritti fondamentali. Musei a rischio chiusura in Bosnia Erzegovina e anche in Italia. Molti musei nazionali in Bosnia e Erzegovina potrebbero sparire definitivamente. Da sempre rappresentano un problema in un paese attraversato da forti divisioni etniche e dall'assenza di una memoria condivisa fra i politici delle diverse etnie, serbi, croati e musulmani, nasce il disaccordo su come gestire il patrimonio culturale. Manca la volontà di accettare la pluralità delle tradizioni. A questo si aggiunge poi la crisi. Nel 2011 ben 7 istituzioni, tra cui il Museo Nazionale, non hanno praticamente ricevuto finanziamenti. In Italia invece il problema è principalmente economico, dal momento che il budget per la cultura si è ridotto dell'80% negli ultimi 20 anni. Il nostro paese avrebbe bisogno di non meno di 50 miliardi di euro l'anno per curare il suo immenso patrimonio. Per questo l'attuale governo farà molta fatica a dare un rinnovato fasto agli oltre 400 musei e ai numerosi siti archeologici che si estendono per quasi 12 milioni di metri quadrati. Quello che non va è il rapporto tra questa immensità e le risorse investite, sia da parte dello Stato che dei privati. E dunque la vera priorità sono gli investimenti in cultura. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. E in chiusura un'iniziativa tra calcio e solidarietà presentata a Bruxelles. Il volto è quello di Raúl González Blanco, 34enne leggenda del Real Madrid e ora bomber dei tedeschi dello Schalke 04. I piedi sono quelli di tutti i calciatori professionisti d'Europa, tutti mobilitati nella campagna 2012 contro la fame nel Sahel, promossa dalla Commissione europea e dalla FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, e presentata oggi a Bruxelles. La Commissione europea è già impegnata in un'azione di risposta immediata, indispensabile per prevenire una crisi alimentare devastante che potrebbe colpire quasi 12 milioni di persone nel Sahel, tra Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania e Niger. Ora questa campagna sarà un prezioso catalizzatore del nostro impegno, ha dichiarato la commissaria europea per l'aiuto umanitario Kristalina Georgieva. Il programma prevede partite di calcio, visite sul campo, iniziative in occasione di fiere, esposizioni e attività attraverso i social media per sensibilizzare sul dramma della fame in nel mondo. Poi il 31 marzo e il 1 aprile la giornata del calcio europeo contro la fame, a cui hanno aderito 15 paesi. Scenderanno in campo oltre 300 squadre professioniste di 20 leghe nazionali. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.